Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro settimanale incontro con la stampa periodica, i settimanali, i mensili, tutto ciò che c'è di nuovo in edicola e che esce dalla normale programmazione quotidiana. C'è una certa conformità, in qualche modo, una convergenza dei settimanali, non solo italiani, questa settimana, sulla questione dell'invidia e delle reazioni più o meno viscerali alla crisi e a quella che potremmo definire una sorta di invidia, di rabbia sociale che sembra montare contro alcune categorie. Sto pensando naturalmente ai manager che negli Stati Uniti sono stati messi sotto accusa per i bonus milionari, nonostante i cattivi risultati della loro società, ma sto pensando anche agli eventi successi in Europa, in Francia e in qualche caso anche in Italia, grazie al cielo con minore enfasi, proprio diretti contro dei dirigenti. Di questa vicenda si occupa Giuliano Ferrara, che gli ascoltatori conoscono per la sua trasmissione alle 9 della mattina, Parliamo con l'elefante. Giuliano Ferrara firma un editoriale su Panorama dove può portare la caccia ai ricchi. I recenti casi di cronaca con manager minacciati mostrano che un certo sindacalismo può trasformarsi in illegalismo, tollerato per timore di più aspri scontri. Ma è giusto? Ricorda Ferrara, di sequestro del padrone sentì parlare per la prima volta a mezza bocca da Vito D'Amico, vecchio leader operaio torinese dei tempi duri, comunista a prova di bomba, partigiano combattente. La cattura del capitalista era uno dei miti neri che furono rinverditi nella memoria politica di Torino negli anni 70, fra crisi economica, cassa integrazione, disintegrazione del comando aziendale nella fabbrica capitalistica meccanizzata e incubazione del terrorismo. 25 anni prima Vittorio Valletta, capo della Fiat, era toccato di finire nelle mani delle maestranze in armi. Comincia quindi con una rievocazione storica questa segnalazione di Giuliano Ferrara sulla nuova rabbia che sembra montare nei confronti dei dirigenti incolpati a torto o a ragione di grosse responsabilità in questa epoca di crisi. E dice ancora Ferrara, in realtà la crisi sociale riguarda tutti, proprio tutti, derivata dal crollo finanziario di Wall Street e a catena dallo smantellamento della fiducia e della propensione a consumare, a investire, a intraprendere e a fare credito. La crisi incide sulla sicurezza del posto di lavoro e del reddito fisso e non ci sono ammortizzatori sociali che tengano. In certe situazioni si scatena una paura irrazionale, una pulsione aggressiva difficilissima da controllare. Beh, proprio questa pulsione aggressiva sembra essere nei pensieri di molti degli articolisti dei settimanali quest'oggi, perché proprio sullo stesso numero di Panorama infatti si ricorda da una parte un film che è in circolazione in questi giorni nelle sale, un film francese, Come ti ammazzo il padrone. Il titolo già fa capire appunto di cosa stiamo parlando. Il film è Louis Michel, è un film francese finito di girare nel 2008 ma uscito solo ora, e racconta sostanzialmente una storia che viene definita da Piero De Tassis nella sua rubrica su Panorama amare, molto ironica, con guizzo surrealista, di una fabbrica che chiude con inganno del padrone e l'assemblea delle operaie che decide di investire la misera liquidazione per assoldare un killer e ammazzare il titolare. L'ironia è mordente, scrive De Tassis, si ride a denti stretti. Beh, qui in questo caso si ride. Ancora nello stesso numero di Panorama, tanto per notare qualche coincidenza che può aiutarci a riflettere, manuale per sembrare meno ricchi. Sembrare meno ricchi, appunto, Stefania Vitulli, sentendo una serie di sociologi e di esperti della materia, insomma dei trend, come si dice, delle tendenze nella società, ci racconta di come sta prendendo piede questo stile frugale. C'è chi rinuncia alla gran festa con 200 invitati, chi non va più a cena fuori, chi entra solo nei negozi di abiti usati e perfino chi compra Griff, però poi sostiene che sono false. Viaggio tra i facoltosi d'Italia che raccontano come di questi tempi è meglio mimetizzarsi. Ecco, ma sarà proprio vero che è meglio mimetizzarsi? Davvero la rabbia, il malessere che sta crescendo, che sembra crescere come corollario della crisi economica, è così forte? Proviamo a guardare all'estero con Newsweek. Newsweek Ad esempio, nella rubrica di Peter Tasker, Global Investor, ci segnala che tutta questa ira nei confronti dei manager potrebbe essere mal riposta. Il titolo significativamente dice: i bonus, cioè sono questi premi che si aggiungono alla retribuzione normale, non creano le bolle, quindi queste bolle temutissime che spingono prima in alto i listini e poi crollano rovinosamente, più che altro addosso agli investitori. Spiega Tasker che in realtà negli anni 80, l'economia giapponese, il mercato delle azioni giapponese era cresciuto con tassi incredibili, anche del 500%, e improvvisamente, trattandosi di una bolla, è collassato, cioè è caduto su se stesso. Bene, rammenta Tasker, gli executive, i dirigenti giapponesi avevano modeste compensazioni annuali, eppure sono stati tra coloro che hanno alimentato una delle più grandi bolle nella storia finanziaria recente. In realtà sembra che non sempre debba prevalere la frugalità, perché andando avanti sullo stesso numero di Newsweek si trova una significativa inchiesta intitolata al lusso, luxury, il ritorno del lusso, quindi le case top che sono quelle che sembrano in un certo senso meglio tenere la crisi. Ci spiega Nick Folks che ad esempio gli orologi di alto e molto alto prezzo si stanno rivelando più facili da vendere rispetto a quelli più economici, e la verità, scrive Folks, è che una volta che abbiamo digerito, assimilato l'impatto psicologico della crisi, una volta che abbiamo in qualche modo siamo riusciti a contare effettivamente i suoi costi finanziari, ancora ci dobbiamo trovare di fronte all'umana natura. Qual è questa umana natura? Spiega Folks, l'umana natura è comunque quella di privilegiare il bello, di privilegiare il lusso, e ovviamente di preferire un oggetto più bello, anche se più costoso, rispetto a un oggetto meno costoso. Umana natura, scrive Folks. Beh, sembra proprio vero, perché Storica è un mensile di nuova uscita, è arrivato adesso al secondo numero. Storica ha una serie di servizi interessanti, uno di questi parla di come si vestivano gli antichi romani, quindi spiega un po' da dove vengono anche i vestiti e le mode ancora in uso, ancora attuali. All'interno di questo bel servizio si trova anche una precisazione che ci fa comodo nel discorso che stiamo facendo, perché dice: in ogni caso, nonostante le differenze sociali, le matrone, quindi le grandi dame, e le prostitute condividevano una vera e propria ossessione, nella Roma repubblicana ancora, il gusto per l'ornamento e per l'acconciatura. La mentalità romana, fortemente legata al pensiero giuridico, arrivò al punto di distinguere ornamenti e accessori per capire ciò che era ereditabile e cosa no, e si giunse anche, scrive appunto Storica, alla promulgazione di una legge, si chiamava Lex Oppia, che dagli albori del secondo secolo avanti Cristo limitò lo sfrenato desiderio di eleganza nei vestiti e nei gioielli delle donne più ricche. La cosa diede origine alla prima manifestazione femminile di protesta dell'antichità, e ciò non impedì tuttavia, la Lex Oppia non impedì che sorgesse una vera e propria industria del lusso, e che a Roma giungessero dall'Oriente le porpore e le sete più preziose. E allora restiamo ancora su Storica per un'altra vicenda interessante che ci viene raccontata sempre dal mensile. Si tratta della storia degli occhiali. Gli occhiali, uno strumento così familiare, così quotidiano, si impara appunto da questo numero di Storica. Si apprende che già il filosofo Seneca, siamo proprio nel primo secolo d.C., risolveva il problema della sua presbiopia leggendo i testi attraverso una sfera di vetro riempita d'acqua, quindi gli funzionava da lente di ingrandimento, e che le lenti esistevano già, ma venivano usate solo per concentrare i raggi del sole per accendere un fuoco. Gli occhiali sono una invenzione in qualche modo dei monaci amanuensi, che avevano delle pietre di lettura ideate sulla base delle teorie di uno scienziato arabo, Al-Hazen, che è considerato ancora uno dei più importanti e geniali scienziati del mondo arabo. Gli occhiali, così come li conosciamo, sono nati prima, quelli per presbiti, in Italia intorno al 1300 verso la fine del 1200, gli inizi del 1300, e solo più tardi quelli per miopi, bisogna arrivare fino alla fine del 1400, del XV secolo, per trovare gli occhiali per miopi, la cui invenzione è accreditata a un cardinale tedesco, Niccolò Cusano, che appunto era filosofo, teologo e scienziato. Tra l'altro le stanghette, e questa è diciamo l'ultima indicazione curiosa che vi do a questo proposito, sono state messe a punto soltanto nel 1728. È stato un ottico inglese, Edward Scarlett, che ha inventato le stanghette. Prima si fissavano gli occhiali nei modi più le lenti nei modi più disparati. Le lenti bifocali le ha inventate invece Benjamin Franklin, che aveva appunto la necessità, come molti di noi, di utilizzare due tipi di occhiali, da lontano e da vicino. Magazine 24. Bentornati alla nostra lettura della stampa periodica. Abbiamo visto il secondo numero di Storica. Vi voglio segnalare che in edicola anche una nuova veste, una veste rinnovata di Diario, un altro mensile molto importante, molto interessante da leggere. Ne parleremo poi nelle prossime puntate, nei prossimi appuntamenti di Magazine 24. Facciamo un passo indietro, torniamo a questa invidia da crisi. Abbiamo visto che non è una prerogativa solo italiana, anzi forse in Italia è anche minore di quanto sta accadendo in altri paesi, con questa rabbia sociale appunto che sembra crescere nei confronti dei dirigenti, delle classi comunque più abbienti. Cesare Fiumi da Magazine 24 giovedì scorso ci ha però ammonito anche sulle parti italiane, sul versante italiano della crisi, perché segnala a caccia un po' di notizie di cronaca importanti e magari un po' trascurate che in una settimana è successa 7 volte questa scena: una strada del centro storico avvolta dal sonno, luci pubbliche che fanno da pallido abat-jour, buio e silenzio, poi d'improvviso sfrigolare delle fiamme, quinta cittadina che si illumina a giorno e la torcia a motore che brucia. È la carcassa annerita di un SUV. Tutto questo accade a Modena, racconta Cesare Fiumi, accade naturalmente di notte. C'è un piromane che ha dichiarato la sua personale guerra ai SUV, cioè a queste auto un po' più ingombranti di quelle tradizionali, e che attirano non da oggi, devo dire, e non dai tempi della crisi, un certo fastidio nei confronti degli altri automobilisti o dei pedoni, da parte degli altri automobilisti o da parte dei pedoni. Di certo, infatti, ricorda Cesare Fiumi, il SUV grande, grosso e gippone non gode di buona stampa e i ranzani che in qualche modo lo parcheggiano ancora meno. Perciò la teoria urbanistico-logistica mostra una sua solidità. Qual è questa teoria urbanistico-logistica? Si pensa che il piromane sia qualcuno che non sopporta la presenza dei SUV nelle strette vie del centro o, più semplicemente, che invidia i possessori delle costose automobili. Ecco, invidia appunto, invidia che però passa al livello di guardia in qualche modo e diventa un'invidia pericolosa, perché con un disagio crescente, avverte Fiumi, quando i conti non si riesce a farli tornare, ci mettono invece niente a tornare parole perdute come indignazione, frustrazione, rancore, che sono capaci di velare lo sguardo quando ci si specchia negli altri, in quelli che la crisi sembrano non sentirla, e di trasformare questo fastidio in rabbia. E viene così in mente anche un altro fatto di cronaca, l'assalto al ristorante del Cambio di Torino, al grido di "questa volta voi ricchi non mangerete", e poi appunto una aggressione vera e propria che si riferisce con letame sui commensali, eccetera. Quindi un gesto fortemente simbolico, oltre che decisamente fastidioso. Non solo in Italia, la villa del nababbo Fred Good, riferisce sempre Fiumi, è stata presa d'assalto da un gruppo di indignati. Perché? Perché ha una pensione, beato lui, di 800.000 euro. E poi naturalmente il sequestro del direttore d'azienda francese e i manager dell'AIG che sono minacciati nelle loro ville del Connecticut. Insomma, anche se in altri paesi sembra esserci più rabbia in qualche modo, sembrano esserci episodi più virulenti di poca tolleranza nei confronti dei manager e delle classi più abbienti, non è che in Italia possiamo essere tranquilli e credere di stare fuori in qualche modo da questa riscossa sociale. E sempre su Magazine del Corriere della Sera una una cosa divertente. Cosa non mi invento per fregare la prova dell'etilometro? Lorenzo Salvia che ci riferisce di tutti i vari trucchi che la stradale trova, trucchi, va precisato, assolutamente inutili, per cercare di non risultare positivi all'etilometro. Le chiamano pozioni antisbornia. E racconta nel suo articolo Lorenzo Salvia che sabato notte in un posto di blocco lungo la via Emilia gli agenti fermano una Golf nera, ci sono quattro ragazzi che hanno bevuto e si vede. Prima di scendere dalla macchina il giovanotto alla guida infila una mano nel cassetto del cruscotto e prova ad agguantare una boccetta di vetro. Gli agenti lo fermano, prendono la boccetta, la illuminano con la torcia, è alloro. Sì, alloro, proprio quello che usiamo per dare sapore alle lenticchie o al capitone di Natale. Tutte prelibatezze di cui naturalmente non c'è traccia nell'abitacolo dell'auto. Dicono che masticarlo, ha spiegato il ragazzo, inganni questa macchinetta, e tanto l'avevo già preso all'uscita della disco. Agli agenti scappa quasi da ridere, in realtà appunto sul display risulta un tasso alcolico nel sangue assolutamente fuori norma, e quindi quella dell'alloro, spiega Salvia, è solo una delle tante leggende metropolitane che girano veloci tra il popolo della notte, trucchi più o meno artigianali che in realtà non truccano un bel niente. Ve ne segnalo qualche altro, sempre riferito da Salvia. Non serve a nulla bere un litro e mezzo d'acqua nei 5 minuti che passano tra il primo e il secondo test. Al massimo fa evitare il mal di testa del giorno dopo, ma non cambia l'implacabile macchinetta dell'etilometro. Spiegano, la stradale, l'etilometro misura l'alcol già assorbito nel sangue e non quello che sta ancora nello stomaco, quindi bere dell'acqua non è assolutamente utile. C'è poi la variante dei furbacchioni, così definita: accendersi una sigaretta, trattenere un po' di fumo in bocca per soffiarlo nell'etilometro al momento opportuno. È falso, perché anche il fumo può impedire la rilevazione del tasso, ma la macchinetta se ne accorge e segnala l'errore e impone la ripetizione del test, quindi anche questo trucco più praticabile, forse più praticabile di quello dell'alloro, in realtà non è così efficace, anzi non è efficace per niente. E addirittura in Trentino si vende un succo a base di mela, pera e patata che hanno ribattezzato salva patente. È inutile, ovvio, e spiega Salvia, gli unici furbi sono quelli che riescono a fare i soldi vendendo una frottola. Non tutto è perduto, perché proprio nelle ultime righe ci si informa che una pozione chiamata Security Feel Better, una pozione originaria della Normandia, sarebbe in grado di abbassare il tasso alcolemico nel sangue in 45 minuti. Era distribuita anche in Italia, in Francia per un po' l'hanno ritirata dalla vendita, e il motivo è stato quello di pubblicità ingannevole. E allora, visto che abbiamo parlato di Francia, una cosa interessante da segnalare dal Nouvel Observateur. Nouvel Observateur ci informa che ci sono dei professori, degli studiosi francesi che stanno pensando di semplificare l'ortografia del francese. Magari, diranno coloro che hanno studiato il francese a scuola, è una lingua, come si sa, molto difficile, piena di eccezioni e particolari difficoltà proprio nella parte ortografica. Che cosa si sta pensando di fare? Si sta pensando di ridurre tutte queste eccezioni, e che alla fine impegnano anche parecchio a livello scolastico, per adottare una sorta di riforma semplificatrice della lingua. Spiega André Chervel, che è uno appunto dei propugnatori di questa richiesta, che ci sono una trentina di suoni da esprimere nella lingua francese, però ci sono 130 modi di rappresentare questi suoni. Quindi per lo stesso suono si possono trovare le varianti più diverse. E quindi cosa succede? Che la nostra ortografia, spiega Chervel, è troppo difficile. Gli studenti ci mettono degli anni per assorbirla, e se noi la semplificassimo sicuramente avremmo un vantaggio, perché ci sarebbe da studiare un po' meno, si passerebbe un po' meno tempo ad apprendere l'ortografia, e quindi si potrebbe forse dedicarsi ad altre cose. Tra l'altro si riporta anche il parere di un insegnante che dice: continuiamo a chiedere sempre di più alle scuole, alla scuola. Questo non mi sembra un rilievo solo francese, in realtà anche in Italia e in molti altri paesi si affidano sempre molti compiti alla scuola, e questo fa sì che ci sia poi sempre meno tempo, ad esempio in Francia, per insegnare l'ortografia, e quindi senza impoverire la lingua si potrebbe, consiglia questa insegnante, razionalizzarla un po'. Una proposta appunto di semplificazione della ortografia francese che chissà potrebbe agevolare anche gli studenti che non sono di lingua francese ma che devono imparare il francese come seconda lingua. Visto che parliamo di lingua, facciamo un'eccezione, non citiamo un articolo questa volta, citiamo una pubblicità che mi ha colpito. Qui la lingua è l'italiano. L'inserzionista scrive che il preventivo non mi convinceva, poi ne ho trovato uno più buono. Ecco, sapevo che si diceva migliore, però evidentemente anche in Italia è in corso una sorta di riforma dei comparativi, di cui probabilmente dovremmo essere informati. Vediamo se questa svista verrà poi corretta nei successivi appuntamenti. Per chiudere, un'annotazione su una cosa proprio di periodo: è il momento delle gite scolastiche. Famiglia Cristiana di questa settimana ci informa che il turismo scolastico oggi interessa alle scuole di ogni ordine e grado, e praticamente 2 classi su 3 scelgono di organizzare una gita. A queste gite aderiscono in media 7 studenti su 10, fa un totale di 1.300.000 studenti viaggiatori. Solo il 16% dei viaggi organizzato dagli istituti scolastici, l'84% è invece organizzato da un'agenzia. E con questa segnalazione sul turismo scolastico, che mi auguro possa essere un buon viatico per le prossime vacanze, per le imminenti vacanze pasquali, io vi saluto. Magazine 24 vi dà appuntamento a sabato prossimo alla stessa ora. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Buona giornata a tutti.